Patrizia, poi ha parlato di ragazzi nel Cilento. Sono i ragazzi del Palio del Grano, sono quelli. Sì. Sono amici miei, Angelo Vagliano e gli altri. Antonio Pellegrino. Antonio Pellegrini, come piccolo nel mondo. Sì. Sono cari amici. Angelo Vagliano, l'ho visto che aprire un bar a Salerno a Porto Cotese per mettere da parte i soldi per comprarsi il casolare e la terra sulla quale adesso coltivo. Ce Coltivo. lo conosco da 8-30 anni, più di 30 anni, dai primi anni 80, quindi anche di più. È Cilento. Poi, conoscendo bene, non è proprio tutto quello che luccica, ma sicuramente quei ragazzi hanno una volontà e hanno un ottimismo veramente molto, molto, molto, molto Hanno una cosa forte. che noi non abbiamo in Sì. Valtellina, hanno i bisogni. I valtellinesi Anche, stanno sì. troppo bene e non, chi ha i bisogni si sta dando da fare. Io facevo una riflessione con Patrizio, con Paolo, tanti che stanno qua, ci conosciamo da tempo. Io mi chiedevo esattamente. Le esperienze come quella di Patrizio, che ormai non sono esperienze, è la vita di Patrizio e della rete e della comunità che si sta creando. E non è soltanto Patrizio, ma c'è Angelo Vagliano nel Cilento, ci sta Massimo Angelini del Genovese, ci sta tu Val di Susa, con sicuramente altre persone che coltivano, certamente, non conosco tutti. Tutto questo a fatica, da una ventina d'anni, anche di più, si sta facendo strada, sta facendo persone molto cocciute, molto caparbie. Prossimo mese, a dicembre, sono 300 numeri che esiste nella rivista che si chiama Terra Nuova. Terra Nuova è nata con l'esperienza del 77 bolognese, è nato il coordinamento Città Campagna, è nato questo bollettino che si chiama Terra Nuova, adesso è la rivista molto cambiata rispetto all'origine, ma per certi versi anche fedele. Io sono stato fra i primi collaboratori, lo sono tuttora. Ecco, noi siamo a Milano. Certamente non si poteva continuare a parlare di Mietitrebbia. Era un fatto tecnico, voi due mettete d'accordo dopo, ed è giusto ed è legittimo così. Giustissimo, ci mancherebbe. Tutto il rispetto per i contadini e chi lavora la terra 24 su 24. Io lavoro 12 su 24, che la mattina faccio l'insegnante. Non so se è una sfortuna o una fortuna, comunque. Un pezzo di terra ce l'ho, un podere, una mia scelta forte, determinata, e quindi coltivo pure io, il pomeriggio. Queste cose qua a lui gliele ho regalate. Sono una delle eccellenze del mio territorio, ma il 13 di dicembre a Fragranze Asso ci sta una giornata della mappa dell'ecomuseo, eccetera, eccetera, eccetera. Però si parlerà di tutto tranne che di terra. Cioè, è molto molto bello quando la città parla della campagna e i contadini non ci stanno. Puoi anche prenderli, poi ti spiego. E invece è meraviglioso quando Patrizio viene in città. Incontra un contadino della Val di Susa e il contadino capisce le mani, il cuore, il fare di Patrizio e tra di loro vanno avanti senza passare per la città. Poi dopo c'è un procedimento concentrico non centrifugo ma centrifugo, che è poi la cosa migliore, no? Io voglio dire questo. Che cosa è questo evento che adesso arriva a Milano, che si chiama Expo, Nutrire il pianeta, Energia per la vita, che cosa dirà? Di cosa si riempiranno la bocca? Sappiamo già per certo che spenderanno centinaia di milioni di euro soltanto in comunicazione. Solo in comunicazione. Cioè, cifra paurosa, c'è cioè fra ragazzi che porteranno. Cose incredibili. La mia scuola, faccio l'insegnante, ogni giorno ci sta un pacco così di roba che arriva per Expo. Cioè, è pazzesco la quantità di comunicazione prova Expo che arriva in una scuola, poi magari a me non arriva tutto perché sto ad Asso, sto a casa di Dio, come si dice in Lombardia, no? Però è pazzesco. È il volume di fuoco che stanno già scatenando per un evento che si chiama Nutrire il pianeta, tutto pianeta non lo nutre. Chi sarà il principale finanziatore del Padiglione americano? Fonti del Sole 24 Ore? La General Electric è una delle principali produttrici al mondo di centrali nucleari. Quindi, energia per la vita, grazie, abbiamo capito che tipo di energia. Nutrire il pianeta, un altro dei protagonisti importanti del Padiglione americano sarà la DuPont. La DuPont, attraverso la sua controllata, che è la Pioneer, produce OGM. E abbiamo capito di che cosa vogliono nutrire il pianeta, che cosa vogliamo fare bere al pianeta. E l'acqua di Expo è l'acqua della Nestlé attraverso la controllata San Pellegrino. Cioè, Quindi l'acqua della Nestlé, intossichiamola con la Coca-Cola, vediamo OGM nucleare. Questa è Expo. C'è una Expo dei popoli che io non esito ad attaccare, perché secondo me è viscida. Nel senso che se dall'altra parte c'è il Moloch, c'è il Carbide, c'è Monsanto, c'è DuPont, c'è General Electric, c'è Nestlé, tu non puoi stare neanche minimamente a fianco o prestare il fianco a dire sì, ma facciamo parlare anche Vandana Shiva. Chi se ne frega? DuPont, Nestlé hanno un potere di fuoco, di acquisto delle redazioni intere, delle televisioni intere, che adesso stanno già mettendo in atto e che metteranno in atto. Per cui la parola di Vandana Shiva sarà un vagito, un gemito di un bambino. Chi è Vandana Shiva rispetto a milioni di euro di comunicazione che sta già facendo Expo? Non è nessuno, è qualcuno nei nostri ambienti. Coca-Cola si ruba l'acqua in Salvador, ammazza i contadini e gli ruba l'acqua. La signora Vandana Shiva avrà un labile gemito, un vagito rispetto a questa cosa. Ecco, Civiltà Contadina, l'associazione di salvatori di semi che esiste in Italia da oltre 10 anni, attivamente con gruppi che ci stanno pure qua in Lombardia, anzi siamo nati in Lombardia, ha deciso di, uno vabbè non siamo stati invitati, perché i salvatori di semi chi se l'ha, giustamente, ma anche se ci avessero chiesto, non ci interessa, abbiamo avuto dibattito ovviamente nel direttivo, abbiamo detto no, noi stiamo da un'altra parte, perché Expo arriva e sfascerà e chissà che combinerà. Noi almeno le mani non ce le sporchiamo, non ci vogliamo stare né dentro né al lato, stiamo fuori. Noi saremo il 21 e il 22 marzo a Leoncavallo, porteremo i nostri semi, porteremo le nostre pratiche, le nostre conoscenze, il nostro amore per la terra. Patrizia è invitato, ci saranno già tutti i contadini, zappatori senza padroni che lo fanno per scelta, e saremo qua, e sarà un evento di biodiversità vera. Io sfido i professoroni universitari di Milano a dirmi che cosa è questo. Io li sfido. E sfido i professoroni di Milano di Agraria a dirmi come mai soltanto in Vallassina, dove abito io, questa ciclante rapedata che viene dal Perù, c'era una signora peruviana che è venuta al banchetto e mi ha detto ah, ma mia mamma la compra al mercato, la signora è peruviana, no? Come mai soltanto in Vallassina questo è sviluppato, c'è una tradizione, delle leggende, c'è un'etnobotanica vera rispetto a questo ortaggio? Perché loro non lo sanno? Perché, te lo dico io, perché la biodiversità si sviluppa nelle aree marginali, si sviluppa dove la gente viene lasciata libera di coltivare quello che vuol coltivare, dove la gente c'ha ancora dei rapporti come quella signora. A me quel racconto lì mi commuove, era mia madre, erano i nostri nonni, che non ha detto vendimi i 5 kg di grano saraceno, ha detto io te li do, tu li riproduci, poi me ne li dai. Quest'altro mondo, il mondo dello scambio, del dono, del baratto, dello stare insieme, senza mettere i soldi e il profitto come prima cosa, cosa c'ha in comune con queste Expo, che è l'Expo dei future, dei derivati, delle scommesse sulla fame, sulla carestia, sulla sete del terzo mondo, e anche la nostra fra poco. Cosa ci dirà l'Expo su queste cose qua? Io li sfido. Però invito tutti quanti voi che siete qua stasera a venire il 21-22 marzo qui a Leoncavallo. Parleremo di queste cose, saremo di più, ci saranno molte più realtà e sarà molto importante che ciò che c'è di civile, ciò che c'è di antagonista, di democratico nella città di Milano incontri i contadini veri. Una parola a Patrizio gliela voglio dire. Slow food all'interno di Expo, mi dispiace. Io come dirigente di Civiltà Contadina, salvatore di semi, che so di che cosa sto parlando, dico che Slow Food è il tappo sulla biodiversità italiana. Se tante realtà non sono riuscite ad emergere, perché Slow Food ci ha messo un tappo, come il tappo, proprio un tappo mortale. Cioè non è possibile che la biodiversità italiana sia soltanto Carlin Petrini, cioè pontifica su Repubblica un giorno sì e l'altro pure, cioè c'è gli editoriali al lato tutti i giorni, parla di contadini, però intanto io sono stato a Terra Madre a Torino qualche anno fa, c'era appunto la signora Vandana Shiva che parlava, c'era anche il mio presidente Alberto Lucci, meno conosciuto, ma a mio parere in quell'occasione disse delle cose anche più intelligenti della signora Vandana Shiva. Vabbè, comunque, in ogni caso, quando Slow Food, Terra Madre, Salone del Gusto, gli sponsor sono l'ENI, la Fiat, eccetera, eccetera, adesso mo, beh, sappiamo che sono gli sponsor di Expo, io dico cosa c'entra questo con veramente un contadino, le terre marginali, la biodiversità, un'agricoltura di qualità vera e non invece come so, perché ad esempio me l'ha detto Massimo Angelini, faccio nome e cognome, Slow Food ha proposto al consorzio della patata quarantina, che ha salvato centinaia di varietà sulla montagna genovese, ha proposto di diventare presidio Slow Food. Massimo Angelini ha detto, ciao, non mi interessa, noi che stiamo qua, Slow Food, non ci interessa pagarti i 400 euro che spero non pagheranno neanche più i ragazzi del Palo del Grano nel Cilento. I 400 euro per essere presidio Slow Food, darti dei soldi per che cosa? Succede che alcuni presidi esistono, certe produzioni pseudo di montagna che si facevano in un determinato modo, poi alla fine il latte era latte di montagna, adesso invece il latte industriale, come giustamente diceva lei prima, cioè tu mi fai vendere più grano saraceno perché alla base ci si fa un paiolozzi per fare certi tipi di produzione tradizionale, poi alla fine chi si avvantaggia? Si avvantaggia che è grazie macchinari, chi lavora su grosse superfici, eccetera, eccetera. Cioè, bisogna smascherarla, bisogna, come quello Farinetti, il lavoro che stanno facendo i ragazzi qua della Terra Trema. Sì, chiudiamo, sì. Ti chiedo scusa, Paolo, ma finisco. Cioè, rispetto all'alimentazione, rispetto all'agricoltura, rispetto al ritorno di centinaia e centinaia, migliaia di ragazzi, no? In città che vogliono avere a che fare con la terra, bisogna parlare con lingua dritta, bisogna stare con che cosa? Stare con chi? E fare legame, fare rete senza avere possibilità di equivoci, di equivoco. Se noi sfuggiamo al mercato, sfuggiamo ai business, ai future, ai derivati, alle multinazionali, non ci possiamo consegnare in mano a complici o alle tre scimmiette che non vedono, non sentono, non parlano. Cioè io vorrei vedere il signor Carli Petrini che va a dire al responsabile della Nestlé, a Expo, che saranno insieme, senti, ma come mai milioni di bambini sono morti? Perché Nestlé spingeva il latte in polvere nel terzo mondo e le donne, siccome i biberon non riescono a sterilizzarli, che non c'hanno i soldi, ci mettono l'acqua sporca e hanno perso milioni di bambini, perché intanto hanno perso il latte materno. Questa cosa Petrini glielo dirà, responsabile di Slow Food. Su questa cosa qua io chiamo voi, militanti di città, democratici di città, a confrontarci. Come fa a stare con Nestlé fianco a fianco, quando ha ammazzato i bambini? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha condannato la Nestlé per questa cosa. E Nestlé adesso fa due torri gigantesche e tu puoi andare a prendere le barrette di cioccolato e l'acqua minerale. E poi questa cosa qua dovrebbe, siccome le torri si abbassano, ti dovrebbe far riflettere sui limiti della crescita e sui limiti della terra. Ah, veramente, intanto la gente la inciti a riempirsi, ad abbuffarsi. Questo è Expo. A parte il cemento, la mafia e l'andrangheta, le vie d'acqua e tutto il resto che voi milanesi conoscete bene. Un post che ho scritto piccolo e concludo qua. Quante centinaia di milioni stanno spendendo per Expo, spenderanno per Expo? Questi soldi non era meglio investirli in quelle realtà che mantengono le montagne in piedi, come dice Patrizio Mazzucchelli, come dice Massimo Angelini, come dice Angelo Vagliano che sta nel Cilento. Sono i contadini veri che tengono le montagne ferme e non allagano Milano. E invece soldi sprecati per Expo. Su questo vi invito a riflettere, su questo vi invito qua. È un giorno di primavera, è il 21, è il 22 marzo, semi di resistenza al Centro Sociale Leoncavallo. Vi aspettiamo!